Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. E poi qualcuno dice che l'Italia non è più un paese cattolico. Se guardiamo al mondo della politica, sembrerebbe proprio di no. I cattolici sono proprio dappertutto. Infatti, il termine cattolico non vuole forse dire universale? Ecco allora che adesso un cattolico, un ex democristiano, Dario Franceschini, è il nuovo segretario del Partito Democratico. Sappiamo comunque che a seconda delle sensibilità, collocazioni politiche, eccetera, le denominazioni dei cattolici in politica sono tra le più svariate e fantasiose. Proviamo allora a nominarne alcune. Ci sono i cattocomunisti, coloro che pensano sia possibile coniugare il cattolicesimo con il comunismo. Ci sono poi i cattolici di destra, i berlusconiani, quelli del Popolo della Libertà. Ci sono cattolici della Lega, i centristi di Casini, i democratici, forse perché gli altri non lo sono, i conservatori, i progressisti, i cattolici adulti capitanati da Prodi, quelli che sono talmente laici e autonomi, anche nei loro giudizi sui valori non negoziabili, da insegnare la retta via persino al Papa. Ci sono quelli del Partito della Vita e quelli del Partito della Buona Morte, eccetera. Ah, dimenticavo, ci sono anche quelli che rappresentano e incarnano, bontà loro, l'Italia dei valori. Ma quali valori? E perché solo loro? Ma non preoccupiamoci più di tanto, anche nella vecchia DC era così. E poi ci si può consolare con il fatto che anche il socialismo, il comunismo e il liberalismo hanno assunto tutta una serie di sfumature. Probabilmente questo è il frutto maturo del relativismo e del libero esame, per il quale non esiste verità. I vari gruppi perciò si compongono e si scompongono attorno ai vari leader fin quando conviene politicamente. Che cosa vuol dire essere cattolico impegnato in politica? Non vuole forse dire essere sale, luce o lievito, qualsiasi sia il gruppo di appartenenza? Sì, perché se il sale perde il suo sapore, a cosa serve? A cosa servirebbe allora la testimonianza di sacrificio, di martirio e di fedeltà degli innumerevoli santi che hanno costellato i 2000 anni di cristianesimo? A che cosa servirebbe in definitiva il sacrificio di Cristo e il suo incarnarsi nella storia dell'uomo? Se poi ci si divide su dove e come costruire un'autostrada, un ospedale, una scuola, eccetera, niente di male, anzi. Claudio. Ma il vice non è colui che deve fare le veci di qualcuno? E allora, se Franceschini era il vice di Veltroni, significa che in caso di emergenza avrebbe dovuto sostituirsi alla figura del capo, continuando e rispettandone le direttive, o no? E allora dov'è la novità? E allora, come mai anche lui non si sente messo da parte dalle dimissioni di Veltroni, ma anzi si fa applaudire come il nuovo capo? C'è aria di scavalcamento, di infedeltà, di opportunismo. Non è un'aria profumata. Giulia. Vorrei parlare del problema Cina. Negli ultimi anni noi imprenditori e di conseguenza anche gli operai siamo stati sotto l'assedio di una politica commerciale senza regole voluta dall'Europa che ha distrutto e sta distruggendo diversi comparti produttivi nel nostro paese: tessile, calzaturiero, ceramico e in generale il manifatturiero. A questo va aggiunto che negli ultimi anni le aziende hanno dovuto sopportare costi impressionanti per tutta una serie di nuove regole imposte dalla comunità europea, mentre la Cina invece offre agevolazioni alle proprie aziende che esportano. Da tempo le aziende si trovano sotto pressione per i prodotti importati dalla Cina, senza nessun tipo di controllo a prezzi che, per molte aziende italiane, equivalgono ai costi delle materie prime. Io credo che sia la destra che la sinistra dovrebbero pensare più al proprio paese e al bene della propria gente. Non ho sentito una sola volta un sindacalista prendere posizioni in merito o manifestare contro questa invasione per difendere gli interessi dei lavoratori. In aggiunta, la comunità europea ha partorito il documento chiamato Linea guida alla compilazione delle denunce antidumping. Per compilarlo e trovare tutti i dati da loro richiesti, sono necessari avvocati, commercialisti e consulenti vari. Forse è stato fatto appositamente difficile e complicato per rendere difficile ottenere dei risultati? Paolo, un imprenditore nel Modenese che si sente preso in giro. Quando si parla di crisi, si pensa alla deflazione, alla diminuzione del PIL, alla disoccupazione. Non si focalizzano però mai abbastanza i problemi sociali che ne derivano. Si pensa ad un aumento della criminalità, dovuto allo scomparire del nero di molte attività. Si perdono però d'occhio alcuni effetti più pervasivi e comuni. Uno dei più importanti è il venire meno delle responsabilità civili e dei risarcimenti correlati al mondo assicurativo. Le prime spese che tagliano quelli che si trovano in cassa integrazione o che hanno perso un lavoro sono quelle relative al bollo auto e all'assicurazione. Molte polizze RC auto non vengono saldate. Ne scaturisce la scopertura di buona parte del parco circolante, venendo così a mancare il ruolo che la responsabilità auto rappresenta. Se una di queste persone causa un incidente, qualsiasi tipo di danno arrecato non viene rimborsato perché manca la copertura assicurativa. È molto difficile prevenire questo problema? Alex. Sarò ingenuo, ma dalla notte dei tempi della nostra Repubblica, le ronde sono lecite. Chi può impedire a gruppi di cittadini di riunirsi e passeggiare di notte? Se non si commettono reati, che problema c'è? Io credo che forse il problema è far credere che d'ora in avanti verranno introdotti dei vigilantes. Credo inoltre che nessuna legge proibisca poi che i cittadini di un determinato distretto geografico si accordino per pagare dei metronotte che sorveglino la zona. Lo fanno le imprese, lo possono fare anche gli individui. A volte alziamo polveroni per nulla. Simone. Qualche sera fa, come spesso capita, sono andata a correre al Parco Nord di Milano dopo le 20. Non sola, ovviamente, ma insieme al mio fidanzato. Dico ovviamente perché andare a correre sola al Parco Nord in orari serali vorrebbe proprio dire andarsela a cercare. A quell'ora la strada di accesso al Parco Nord è un viavai di macchine che quelle sì fanno la ronda. Se capita di arrivare in macchina e di rimanere qualche minuto in più all'interno per togliersi la giacca, per finire di ascoltare un programma radiofonico, si diventa subito un target come gli altri. Qualcuno si avvicina con la macchina o a piedi, guarda all'interno con fare ammiccante, a volte con insistenza, anche se dall'interno si fa cenno chiaramente di stare alla larga. L'altra sera, appunto, è accaduto questo. Qualcuno ha insistito un po' troppo e, infastiditi, abbiamo chiamato il 113. Dal 113 ci hanno rimpallato al 112, al 112 ci hanno fatto attendere un po' in linea e poi hanno risposto alla nostra segnalazione dicendo che sarebbero venuti a verificare. Siamo scesi dalla macchina e abbiamo fatto la nostra corsa di circa 45 minuti. Proprio mentre tornavamo alla macchina abbiamo visto arrivare l'auto dei carabinieri. Le auto ferme erano più rade, non c'era più molto da rilevare. Ci siamo avvicinati per farci riconoscere come i segnalatori, abbiamo rispiegato il problema e i carabinieri hanno preso le nostre generalità e molto gentilmente ci hanno spiegato che quello non è un bel posto da frequentare di sera, che in quelle ore le forze dell'ordine sono impegnate a presidiare le zone con negozi in chiusura che possono rischiare rapine, eccetera. Mi chiedo, se il Parco Nord nelle ore serali fosse presidiato da gruppi di cittadini che semplicemente passeggiano e controllano quello che succede, non sarebbe quantomeno più sicuro andare a farsi una corsa senza rischiare brutti incontri? Con la sicurezza che, vista la presenza di persone preposte al controllo, eventuali malintenzionati si sentirebbero meno liberi di agire? Barbara. Ma perché nessuno nota che se abbiamo bisogno delle ronde è per una carenza dello Stato? Perché non si aumentano i fondi alle forze dell'ordine affinché siano esse a vigilare sui quartieri a rischio? Giusy. Chi è povero e diseredato e disperato ruba per mangiare. Un lavoro potremmo darglielo, e anche la casa, e anche la sacrosanta assistenza sanitaria, eppure l'asilo nido per i bambini. Ma che c'entra la violenza sessuale? Dobbiamo dar loro anche il sesso di Stato, in modo che non vadano a violentare le ragazzine nei parchi? Maria. Mi ribello alla dilagante ipocrisia degli intellettuali che tacciano tutti di razzismo con facilità e vuote parolone piene di retorica. Non tengono conto della realtà in cui viviamo. Non si può parlare di razzismo, semplicemente perché non viene colpevolizzata una razza. Noi italiani medi, come ci chiamano, ce l'abbiamo con i violenti, i ladri, gli assassini, gli stupratori, di qualsiasi razza o colore della pelle. Ma è così difficile da capire. Paolo. Buongiorno, direttore. Vorrei chiedere agli ascoltatori di sinistra se non sia ora di cambiare questi dinosauri. Se vogliamo far crescere questo paese, forse è il caso che anche le loro idee vengano semplificate. In questo paese ormai fermo, che anzi sembra sia tornato indietro su molti versanti, C'è bisogno di persone giovani, di progetti di vita, di idee innovative sul mondo del lavoro e della scuola. Ci lamentiamo di non poter uscire di casa senza il patema di essere aggrediti o stuprati. Chiediamo a chi comanda se abbiamo poche forze dell'ordine, perché davanti alle scuole, tutte le mattine, in entrata e in uscita, ci sono due vigili e ci si domanda cosa stiano lì a fare. Chiediamo ai poliziotti di documentare come svolgono il loro servizio notturno. I carabinieri alle 8 di sera chiudono e buonanotte. E il paese è lasciato tutta la notte nelle mani di delinquenti di tutte le razze. Perché le forze dell'ordine non possono mandare in servizio anche uno solo di loro, salvo poi chiedere rinforzi se serve? E naturalmente dovrebbe essere attrezzato come Dio comanda. Questo vorrei chiedere alla gente. Voi che ne pensate? Fernando. Caro Fernando, il problema della sicurezza è oggetto di grande dibattito in questi giorni per tutte le sue importanti implicazioni. Certo, una maggiore presenza delle forze dell'ordine sarebbe opportuna, ma non si può mettere in stato d'assedia o imporre il coprifuoco all'intero paese. Si è discusso delle ronde e su questo piano se è da respingere la possibilità di creare una polizia parallela autogestita, va comunque secondo me guardata con favore la possibilità di una maggiore partecipazione dei cittadini e dei volontari a un controllo del territorio in stretto collegamento con le forze dell'ordine. Tutto sta nel senso della misura e magari nel far tornare proprio le forze di polizia a compiti che dovrebbero essere loro propri. Un paese veramente civile non dovrebbe, per esempio, impegnare centinaia di agenti ogni domenica per controllare gli stadi. E dico questo non per affidare i controlli negli stadi a battaglioni di agenti privati, ma perché gli stadi dovrebbero essere luoghi di sport, semplicemente di corrette competizioni sportive. Ma questo sarebbe appunto un indice di civiltà. Gentile direttore, mi chiamo Massimo e abito in provincia di Venezia. Mi volevo congratulare con tutta la vostra radio perché, a differenza di molti altri mass media, davate ogni giorno, verso le 7 del mattino, un aggiornamento sulle due suore rapite in Somalia. Poi, finalmente, abbiamo sentito dalla vostra stessa radio l'annuncio della loro liberazione. Veramente grazie a chi si è occupato di tenere sempre accesa la piccola candela della speranza quando, oltre la crisi finanziaria, effettiva e meno, l'informazione è più per lo spettacolo che per le storie vere. Massimo. Egregio direttore, ho ascoltato la lettera della giovane laureata passata attraverso vari stage e senza alcuna prospettiva di stabilizzazione. Io credo che tutte le forme di lavoro che sono state offerte alla giovane avessero il solo scopo di ottenere il massimo pagando il minimo. Non si può parlare di rigidità del mondo del lavoro di fronte a una simile gestione dei contratti di lavoro, che risulta peraltro assolutamente diffusa e maggioritaria nel caso dei giovani. Se c'è tanta diffidenza da parte del sindacato a togliere gli attuali vincoli o salvaguardie al lavoro dipendente a tempo indeterminato, è perché l'esperienza concreta di questi anni, dalla Treu in poi, è stata quella di un uso della flessibilità non per una progressiva stabilizzazione dei giovani, ma semplicemente per pagare il meno possibile il loro lavoro, senza avere alcun vincolo. In sintesi, una logica da furbetti, più che da imprenditori. Ci saranno anche casi virtuosi, ma a quel che vedo risultano una minoranza. Lo ripeto, è in base all'esperienza concreta che si può prevedere che un'eventuale maggiore flessibilità sarebbe usata dai datori di lavoro unicamente per ridurre ancora diritti, salari, garanzie, e non darebbe un vero miglioramento del tasso di occupazione. Francesco, Torino. Radio 24. Che bello poter ascoltare la vostra radio qui negli Stati Uniti. Vi ringrazio per un servizio che ci aiuta a sentirci a casa. Vi scrivo perché ho ascoltato una lettera che vi hanno mandato sulle parole inglesi che continuano a insidiarsi sempre più nella nostra bellissima lingua. Io insegno italiano qui e vi posso assicurare che i miei studenti vogliono parlare l'italiano puro, non l'italiano inglese. La nostra cultura e la nostra lingua sono ammirate in tutto il mondo, non roviniamoci da soli. Abito negli Stati Uniti da 26 anni e ogni volta che ritorno in Italia o sento la radio italiana, sento sempre più inglese e meno italiano. L'altro anno ho letto un articolo su un giornale italiano dove in due o tre paragrafi c'erano almeno 10 parole inglesi, assolutamente superflue, visto che in 3 secondi sono riuscita a sostituirle con 10 parole italiane, che avevano, fra l'altro, molto più senso. Vi ringrazio per aver discusso questo argomento molto importante. Io e i miei colleghi professori di italiano siamo molto fieri del nostro lavoro e del nostro patrimonio culturale. Daniela. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.